Ragazze sole, ferme come statuette, anche se mute, Amalia anche le guarda, con gli occhi accesi, dalla luce al neon, la bocca ingorda di sigarette e baci. Ragazzi soli, che sembran dei diamanti, capello unto, a credersi a tranchi, camicia bianca, per brillare al buio, e gli occhi spenti dalle canne e dalla vodka. Troie che ballano e si strisciano sui tasti, prendi le basi, ma poi sul più bello si riscoprono di colpo caste pure, e a conti fatti poi non te la danno. 35enni che si trovano con tutte, col savoir-faire di un alcolizzato al night, non si sa come, ma rimedian sempre quasi mai. Loro vanno a letto in bianco, ma tu sotto la luce stroboscopica mi sembri sempre più splendida. Sotto la luce stroboscopica sei la più bella di tutte. Sotto la luce stroboscopica tu ondeggi e io gioco a spogliarti. Sotto la luce stroboscopica tu sei sempre più splendida. Resto seduto con il mio drink in mano, vicino a me c'è un tizio collassato, steso per terra a pelle di leone, in mezzo ad una pozza di vomito marrone. Dall'altra parte una coppia limona, lingua su lingua, senza pensare a nulla. Nessuno dei due sa come si chiami l'altro, a nessuno dei due importa di saperlo. Ma tu sotto la luce stroboscopica mi sembri sempre più splendida. Sotto la luce stroboscopica sei la più bella di tutte. Sotto la luce stroboscopica tu ondeggi e io gioco a spogliarti. Sotto la luce stroboscopica tu sei sempre più splendida.